Ciao, stai cercando di imparare l'inglese? Bene, perché oggi parleremo proprio di come imparare facilmente e velocemente questa lingua. Certo, è una cosa ormai fondamentale se vuoi viaggiare, ma anche per lavorare o se vuoi aprirti a nuove realtà, perché, come sicuramente avrai già capito, puoi aumentare in modo estremamente significativo le tue opportunità di crescita umana, professionale ed economica. Purtroppo però la scuola e in molti casi anche l'università, in Italia, non offrono una formazione davvero efficace, e spesso, alla fine del proprio percorso di studi, gli italiani conoscono poco e male la lingua inglese, trovandosi in notevoli difficoltà in parecchi contesti. Per fortuna in tutte le principali città italiane puoi trovare scuole e corsi d'inglese, in grado di rispondere alle più diverse esigenze formative di adulti e ragazzi. In particolare, se vuoi imparare l'inglese a Roma c'è un'opportunità fantastica, rappresentata dall'Istituto Trust Europe, specializzato nella formazione linguistica internazionale con un metodo infallibile. Tra i tanti corsi di inglese a Roma, il metodo Trust Europe dimostra di avere una marcia in più, grazie ad un approccio estremamente diretto, comunicativo e, pertanto, davvero efficace. Questa scuola di inglese a Roma ti permetterà di padroneggiare finalmente la lingua, anche se con altri metodi e percorsi didattici hai in passato ottenuto risultati mediocri. Non arrenderti. Imparare l'inglese è possibile, anche per te, e non solo, può anche essere facile e divertente. Non rinunciare a questa opportunità, conoscere la lingua inglese, già oggi, è fondamentale, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni. Imparare l'inglese a Roma, oggi è davvero alla portata di tutti, basta approcciarti allo studio della lingua nel modo corretto, e i docenti Trust Europe, tutti rigorosamente madrelingua, ti permetteranno di farlo grazie alla loro pluriennale esperienza che ha portato allo sviluppo di un metodo innovativo, che ha permesso di superare i più diffusi errori dei corsi tradizionali. Molti metodi di apprendimento, infatti, hanno puntato sulla memorizzazione dei vocaboli, precludendo di fatto la possibilità di ottenere buoni risultati a chi non dispone di una buona memoria. Trust Europe invece ha capito che chiunque può memorizzare una grande quantità di informazioni, se queste vengono proposte nel modo corretto e per permetterne la comprensione e facilitarne il ricordo. I corsi di inglese di cui ti parlo, si concentrano inoltre su quelle che sono le reali esigenze e gli interessi dei corsisti, permettendoti loro di crearti un tuo vocabolario, in base al tuo lavoro, i tuoi hobby e le tue attività. Naturalmente sarai in grado di comprendere ogni conversazione, acquisendo un vocabolario di base, ma l'approccio sarà personalizzato, in base al tuo effettivo livello e alle tue esigenze. Allo stesso modo ti verranno presentate tecniche estremamente efficaci e potenti per la memorizzazione attraverso un approccio logico-deduttivo, sviluppato da Mr. Michael Kenyon, che ne ha sperimentato la straordinaria efficacia in anni di addestramento linguistico per gli adulti. Imparare l'inglese può diventare una straordinaria avventura se sei assistito da uno staff in grado di farti sfruttare risorse straordinarie, già in tuo possesso, ma che spesso non riesci a sfruttare adeguatamente. Le nuove informazioni sono, infatti, facili da memorizzare e subito disponibili per un competente utilizzo, a patto che queste siano legate a una procedura, un concetto o un'esperienza personale. L'associazione di idee è uno strumento che può facilitare enormemente l'apprendimento di una lingua, per questo, a Trust Europe, si punta molto sullo sviluppo e l'utilizzo della memoria semantica e procedurale. Ma non ci si ferma certo solo a questo. Più di 20 anni di studi ed esperienze sul campo hanno dimostrato la straordinaria efficacia delle tecniche basate sulla memoria uditiva e su quella visiva. Ogni persona è diversa, in alcuni è predominante la memoria uditiva, in altri quella visiva, ogni concetto o vocabolo presentato in aula dai docenti, viene quindi, per questo, espresso verbalmente e presentato visivamente, attraverso la scrittura, ma anche con disegni, schemi e tabelle, per una più facile associazione e memorizzazione, che ti permetteranno, allo stesso tempo, di comprenderne il significato, di ricordarne ortografia e pronuncia, e di iniziare subito a poterlo usare in tantissimi contesti. Spesso studiare l'inglese è frustrante, in particolare per gli adulti, perché hai l'impressione che quel poco che impari non sia poi spendibile nel mondo reale. Il metodo di cui ti sto parlando capovolge questa situazione, permettendo a tutti, a qualsiasi livello di conoscenza della lingua, di utilizzare subito, con successo e conseguente soddisfazione, i nuovi vocaboli acquisiti, che resteranno memorizzati a vita e arricchendo il tuo bagaglio linguistico e culturale. Se hai già provato tante diverse soluzioni per studiare l'inglese e ancora non hai ottenuto il tuo obiettivo, TrustEurope ti permetterà finalmente e con poco davvero, di realizzare il tuo desiderio aprendoti veramente le porte del mondo con una comunicazione facile, intuitiva, efficace e divertente. Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamaci all'891-51-31 o scrivici a info@corsidinglese.roma.com. Ripeto, 891-51-31 o scrivici all'indirizzo info@corsidinglese.roma.com. Ti aspettiamo!